Italia in controluce. In primo piano un aggiornamento sul terremoto, l'avete sentito anche nel nostro GR, si è sentito un terremoto in tutto il nord Italia con epicentro in Toscana. Ebbene, secondo le prime indicazioni giunte alla sala operativa della protezione civile della provincia di Massa Carrara, si segnalano crolli in Lunigiana, Fivizzano e Casole o Casole, non so come si dica. Sarebbero rimaste danneggiate alcune abitazioni con la caduta di tetti e una persona sarebbe rimasta ferita in località Postella, ma insomma niente di grave. Naturalmente continueremo ad aggiornarvi su quanto è accaduto in Toscana e quanto poi si è sentito anche in tutto il nord Italia, compreso Milano, da cui vi parliamo. Ma noi oggi parliamo dell'emergenza rifiuti, un'emergenza rifiuti che non vuol dire solo Campania. Infatti non è solo la Campania a dover fare i conti con l'Europa alla luce della nuova bacchettata di ieri, di cui vi abbiamo ampiamente riferito nei nostri GR. Qui in realtà siamo in Lazio. La discarica di Malagrotta è ad un passo dal tracollo, ma una discarica alternativa al momento non si trova. Anche per la discarica romana di Malagrotta l'Italia è stata peraltro deferita alla Corte Europea. Ora per quella discarica siamo alla resa dei conti finale. È infatti autorizzata a lavorare fino a fine giugno. E la domanda che vi faccio oggi è: come mai secondo voi in Italia siamo così incapaci di gestire la questione dei rifiuti e ci becchiamo tante multe pure salate dall'Europa? Eppure la spazzatura mi risulta che ce l'abbiano anche gli altri paesi. I vostri SMS al 349-238-6666. E torniamo su Malagrotta, un enorme buco nero di 240 ettari, più o meno 240 campi di calcio, quindi davvero una bella ampiezza, da 5.000 tonnellate di rifiuti al giorno di proprietà di Manlio Cerroni, che fattura circa 800 milioni di euro l'anno. Malagrotta è la discarica più grande d'Europa. Ebbene, dopo 35 anni e innumerevoli proroghe si avvia alla definitiva chiusura. In realtà si avvierebbe, perché è d'obbligo il condizionale, perché l'ultima scadenza, l'11 aprile, è stata spostata a giugno. Il tempo necessario per ultimare il sito provvisorio, cioè Monti dell'Ortaccio, che si trova a circa 700 metri di distanza ed è pure di proprietà dello stesso Cerroni. Allora, nelle immediate vicinanze della discarica vivono più di 50.000 persone che non sono per niente contente di essere lì. Oggi pomeriggio l'incontro fra il ministro dell'ambiente Andrea Orlando, il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti e il neo sindaco di Roma Ignazio Marino, che si trova sul tavolo una bella grana. Ma il sito alternativo non si trova ancora, non si sa ancora quale possa essere. Allora facciamo il punto con Roma e con la nostra Monica Ceravolo. Buongiorno Monica. Buongiorno a voi. Allora, il punto... Quali sono le ipotesi sul campo? Di che cosa si parlerà oggi in questo tavolo? Allora, in realtà si parlerà di due opzioni che esistono, poi come sentirete la situazione è più complicata di quello che sembra. L'ipotesi è che Malagrotta venga chiusa oppure prorogata, sarebbe semplice, però nel primo caso, nel caso in cui dovesse decidersi per la chiusura, bisognerebbe contestualmente trovare una alternativa, un sito alternativo per stoccare la spazzatura di Roma, sito che al momento non esiste. Tutto questo dovrà essere deciso entro il 29 giugno, come avete già detto, perché il 30 scade l'autorizzazione per Malagrotta. Altra possibilità: firmare la proroga. Ma chi dovrà firmarla questa proroga è un altro problema. O il Comune di Roma, e sarebbe un'anomalia, oppure il commissario straordinario, così come dovrebbe essere il commissario straordinario per i rifiuti è il prefetto Goffredo Sottile, però è in scadenza pure lui. Quindi il suo mandato finirà il prossimo 7 luglio e quindi nel caso in cui dovesse essere lui a firmarlo si dovrà prima procedere alla proroga del suo di incarico. Questo è quello che il sindaco si troverà sul tavolo alle 19 di oggi, vedremo quando inizierà l'incontro. I nostri ascoltatori hanno le idee molto chiare, perché stanno scrivendo numerosi al 349-238-6666 e stanno cercando di darci le prime indicazioni. Noi abbiamo chiesto come mai gli italiani sono incapaci di gestire la questione dei rifiuti, quando ovviamente è una questione che hanno anche tutti gli altri paesi. Le prime risposte: forse la mafia c'entra qualcosa? Solo con le spazzature siamo incapaci? C'è la mafia in mezzo, non lo Stato. I rifiuti sono tutti in mano alla camorra, perciò ed è per questo che non si può fare nulla, non si fanno investimenti per lo smaltimento dei rifiuti. E poi ancora, gli altri paesi smaltiscono i rifiuti perché non hanno la mafia, quindi diciamo tutti improntati più o meno sullo stesso tema, no? Sarebbe la mafia di impedire una soluzione definitiva del problema dei rifiuti. Maurizio Melandri, vicepresidente del Comitato Malagrotta, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Ci crede in una soluzione del problema oggi pomeriggio nell'incontro con Orlando? Ma diciamo, una domanda del genere fatta a me come fatta agli altri circa 50.000 abitanti di Malagrotta e dintorni, insomma, la risposta è sicuramente no, visto che ormai sono anni e anni che aspettiamo una soluzione, ma che vediamo sempre praticamente la ricerca di non soluzioni. Cioè anche quella che diciamo che si sta prospettando adesso, sentivo nella presentazione della sua collega, insomma, la chiusura di Malagrotta piuttosto che il sito alternativo. Io se mi è concesso, senza Certo. andare molto indietro negli anni, perché potremmo parlare ovviamente da quasi 30 Però se anni, mi parla un po' più immagino. forte la sentiamo Sì, anche. perfetto. Diciamo, senza andare molto indietro, vorrei fare, per partire da circa 2 anni fa ormai, quando è stato nominato il primo commissario, il prefetto Pecoraro. Noi l'abbiamo incontrato allora, quando appunto ci presentò la mappa dei 7 siti alternativi a Malagrotta che avrebbe lui ricercato e indicato, insomma. Noi facevamo presente all'allora commissario che quella lì era una strada sbagliata, non era, diciamo, cercando un'alternativa a Malagrotta che si sarebbe risolto il problema dell'emergenza rifiuti a Roma, ma sarebbe stata, si doveva ricercare una soluzione in un'alternativa nella gestione dei rifiuti, nel sistema, cioè abbandonare questo concetto della finalizzazione dei rifiuti nella discarica, nell'incenerimento, ma andare verso quel modello diciamo virtuoso, che neanche è più giusto definirlo virtuoso perché ormai è applicato in Eh moltissime parti certo. del mondo, ma anche in Italia, ad esempio, non sempre dobbiamo Infatti, scrivono i essere nostri così. ascoltatori, è uno schifo italiano complice la mancanza di senso civico e la partecipazione attiva della camorra. Va aumentata la raccolta differenziata con multe pesantissime a chi non la fa. Siamo noi una spazzatura, ci scrive invece Franco addirittura. Siamo un popolo incivile fatto di furbi e menefreghisti, Fabio da Roma. E poi scandalo spazzatura, giro di tangenti e consulenze, anzi fondi pro partiti in quanto sono gestite da enti vicini a partiti che amministrano le varie realtà comunali. Dunque solo un gran giro di denaro dove molti sguazzano. Monica Ceravolo, in effetti ci sono molte inchieste aperte su questo fronte. In un minuto. Eh sì, in un minuto. Allora sì, ci sono delle inchieste aperte. Una riguarda, cioè coinvolge in qualche modo quello che avete citato, Manlio Cerroni, il Deus ex machina dello smaltimento dei rifiuti nel Lazio. Ebbene, tutto parte alla Procura di Velletri nel 2009. Si indaga sulla pontina ambiente che produce il combustibile che poi viene usato nei termovalorizzatori, di fatto diciamo smaltisce e tratta i rifiuti. Il sospetto è che ne sia stato prodotto meno di quello dichiarato. Quindi, secondo l'accusa, Cerroni incassava dai comuni mentre continuava a sversare in discarica i rifiuti e Velletri ipotizza che abbia avuto introiti non dovuti per 9 milioni di euro tra il 2006 e il 2010. Ebbene, al momento della richiesta d'arresto da parte del PM di Velletri, in cui compare anche il nome di Cerroni e di alcuni funzionari della Regione Lazio, il GIP, il giudice, dichiara l'incompetenza territoriale e loro Monica, ti devo l'ipotesi di. interrompere perché il nostro tempo purtroppo si è concluso qua, ma potremo naturalmente approfondire tutti i temi che abbiamo toccato in questa puntata di Controluce sul nostro sito radio24.it. Grazie a Monica Ceravolo da Roma, grazie a Maurizio Melandri, vicepresidente del Comitato Malagrotta, grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Un saluto da Maria Piera Ceci.